Intesa San Paolo, Official Global Banking Partner di Expo Milano 2015. Vi presenta. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Barack Obama ha parlato ieri di ISIS, sentiamolo. Our comprehensive strategy against ISIL is harnessing all elements of American power across our government. Military, intelligence, diplomatic, economic, development and perhaps most importantly the power of our values. Ecco, il presidente ha fatto molte dichiarazioni, ha detto che la guerra contro l'ISIS sta andando bene, che sono stati recuperati una gran parte dei territori che erano andati perduti, soprattutto dei territori iracheni, ha detto che non manderà altri soldati americani al fronte, ha cercato di dare un tono ottimista, ma non è che abbia detto nulla di nuovo. Dunque molti si sono chiesti: ma come mai il presidente così ha fatto un discorso che doveva essere importante, che poi in realtà non ha portato notizie nuove rispetto al passato? Il collegamento, secondo alcuni, è molto semplice: cerca di essere presente attivo nel calderone medio orientale nel momento in cui sta per emergere un accordo, almeno così tutti si augurano, a Vienna sul nucleare iraniano. Vediamo dunque dove sono i negoziati a Vienna. Ricorderete che dovevano chiudersi entro il 30 di giugno, sono stati prolungati fino al 7 di luglio, cioè fino ad oggi. Io non credo che oggi si troverà una soluzione, anche se ho saputo che il documento, una cinquantina di pagine, è praticamente pronto, che gli ostacoli sono stati più o meno rimossi tutti. Ma che è successo? Che improvvisamente ieri l'Iran ha fatto una nuova rivendicazione, ha chiesto che sia tolto l'embargo sulle vendite di armi. Ecco, questo è un fatto nuovo, ha paralizzato un momento il dialogo. Il côté americano non capiva bene che cosa ci fosse dietro questa richiesta, ma secondo me alla fine si troverà un compromesso. Il pronostico è che l'accordo non si chiuderà oggi, ma quasi sicuramente si chiuderà domani. Dunque un momento importante dal punto storico, come vi dicevo, soprattutto per la stabilità, per un tentativo di recupero di stabilità, cosa di cui abbiamo tutti enorme bisogno, soprattutto quando vediamo quanto instabile sia la situazione in Europa e in Grecia in particolare. The people of Greece partied in the streets afterward, but once again woke up to long lines at ATMs. Frightening economic uncertainty and leaders without answers. Ecco, ieri naturalmente si è molto parlato di Grecia, tutti i telegiornali, i giornali radio, i giornali, i quotidiani non parlavano d'altro, era il tema forte, perché continua a esserci preoccupazione per questo rischio di sganciamento della Grecia dall'Europa. Devo dire qui in America la preoccupazione è soprattutto politica, non economica, anche perché è l'operazione Subdomino di cui vi ho parlato. Subdomino è in gergo quello che gli investitori avevano definito come questo attacco presunto che poteva esserci contro l'Europa, contro i paesi più deboli, il Portogallo, la Grecia, magari pure la Francia, la Spagna, da parte di grossi hedge fund americani. Ecco, questi timori di un attacco sono rientrati, almeno per ora naturalmente, perché poi si sta cercando di trovare ovviamente una soluzione di compromesso. Però cosa succede? Che la dinamica che abbiamo visto sui mercati americani dopo il no della Grecia è stata piuttosto tranquilla, al punto da aver reso meno efficace l'appello della Casa Bianca di ieri, che è favorevole a uno sforzo congiunto per tenere la Grecia nell'euro. E qui si scontrano, come già vi ho raccontato in puntate precedenti, si scontrano gli obiettivi strategici della Germania e quelli degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno timore che possano esserci delle conseguenze politiche paradossalmente proprio per l'Europa, perché se si sfila la Grecia, certo per ora si parla soltanto di euro, però è chiaro che piano piano, insomma, un'uscita dall'euro potrebbe portare la Grecia nelle braccia della Russia, nelle braccia del Medio Oriente, del calderone medio orientale. Insomma, qui il punto di svincolo è un punto di svincolo politico molto importante, molto delicato. Si deve cercare di tenere l'Europa insieme, e siccome questa è una priorità, e siccome dal punto di vista strettamente economico, monetario, la Grecia tutto sommato non preoccupa, ecco che l'attenzione di tutti è proprio su questo fronte. Stocks just mildly lower Monday, the Dow, S&P and Nasdaq all ended the day in the red. The head of the Greek Bank Association said banks will remain closed Tuesday and Wednesday and that the daily ATM limit will remain at 60 euros. Ma vediamo che cosa è successo anche dal punto di vista tecnico. Intanto alla fine l'indice Dow Jones, dopo essere entrato in territorio negativo, poi in territorio positivo, poi perdeva lo 0,5%, alla fine ha chiuso con un meno 0,25%, quindi tutto sommato la reazione in borsa in America è stata molto contenuta, direi assolutamente fisiologica. Il mercato dei treasury, dei buoni del tesoro, ha avuto un piccolo sobbalzo nei rendimenti per la manifestazione di interesse all'acquisto. Naturalmente si cerca di minimizzare il rischio e dunque i flussi di capitale internazionale arrivano negli Stati Uniti, comprano dollari, indeboliscono un pochino l'euro, ma anche lì il movimento è stato relativamente contenuto. I rendimenti, per esempio, sono andati in calo al 2,27,4% rispetto al 2,393% che si aveva in chiusura di venerdì. Dunque non c'è sicuramente una situazione di shock. Certo, i mercati tendono in questa fase a dare molto più peso alle parole della Merkel che a quelle della BCE, che ha aiutato prolungando le scadenze delle linee di credito. Però la Merkel si trova in difficoltà, si trova ad essere ostaggio del suo ministro Schäuble, il quale sta cavalcando questa crociata contro la Grecia più per questioni di politica interna che per una visione europea. Ecco, qui interviene il messaggio della Casa Bianca. L'invito di Obama è molto chiaro: cerchiamo di fare il possibile per tenere la Grecia legata all'euro. Io credo che una situazione di compromesso si troverà, soprattutto dopo le dimissioni del ministro delle Finanze in Grecia. Bene, voglio chiudere però su una questione che secondo me è molto interessante, perché da una parte parliamo di crisi, da una parte vediamo la Grecia in difficoltà, i governi che dialogano, dall'altra vediamo il capitale privato in movimento, in particolare il capitale italiano, perché oggi ci sarà un incontro qui a New York di John Elkann con gli azionisti. John Elkann, presidente di Exor, con gli azionisti di Partner Re, una compagnia di assicurazione e riassicurazioni molto importante in America, una capitalizzazione di circa 6 miliardi di dollari oggi. Ebbene, Exor sta offrendo un prezzo di 137,5 dollari per azione, pari a circa 7 miliardi di dollari, eppure il management di Partner Re resiste. Perché? Perché c'è un'altra azienda, la Axis, anche lei che opera nel settore delle assicurazioni, che ha fatto un'offerta per 125 dollari per azione, che addirittura è inferiore al prezzo di mercato di ieri. Il titolo ha chiuso a circa 130 dollari per azione. C'è stata una lettera aperta di John Elkann della Exor ai dipendenti e agli azionisti di Partner Re per cercare di convincerli a votare, quando ci sarà l'assemblea degli azionisti in luglio, a favore dell'offerta di Exor. Ecco, voglio chiudere su questa notizia perché sicuramente oggi avremo ulteriori dettagli dopo l'incontro di John Elkann con gli azionisti di Partner Re, ma è chiaro che per noi sarebbe un'importante mossa verso l'internazionalizzazione, cosa di cui parliamo in continuazione. Le possibilità di crescita le troviamo ovviamente al di fuori dell'economia del nostro paese, le troviamo nel contesto di un'economia globale e in questo caso negli Stati Uniti d'America, che restano pur sempre il crocevia fondamentale per quelle che sono le nuove frontiere, lo dico sempre in chiusura di trasmissione, di sviluppi verso la globalizzazione nel settore finanziario, nel settore tecnologico. Dunque vedremo oggi se ci sarà, dal punto di vista italiano, un avanzamento secondo me importante. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. La voglio dedicare a Grateful Dead. I Grateful Dead sono questo grande gruppo rock che ha chiuso la sua carriera con un concerto un paio di sere fa a Chicago. Concerto storico, 70.000 persone. Grateful Dead, che hanno debuttato 50 anni fa, e uno dei grandi protagonisti della band era Jerry Garcia, che purtroppo è mancato. Gli altri componenti si sono ritrovati, c'era un'atmosfera molto nostalgica, hanno detto che non suoneranno mai più insieme, e dunque a loro dedichiamo la canzone del giorno dei Grateful Dead, Trucking. Trucking, got my chips cashed in, keep trucking like the dude I made. More or less in line, just keep chugging on, on, on. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical day. Dallas got a soft machine. Houston